B. Ascolta e completa il testo. Da quando Matteo è diventato avvocato, non ha molto tempo libero. Forse gli dispiace non riuscire a coltivare i suoi interessi. Lavora nello studio di suo zio, lontano da casa, e gli ci vuole quasi un'ora per arrivare in ufficio. Quando gli capitano degli incarichi importanti, gli fa piacere sentirsi responsabile.